È quasi notte, dove sarai? Angelo buono, io sto qui in un silenzio lento, sconto la libertà. Cresce la tua voce dentro me, siedo al piano e libero il mio peso, cerco chi non c'è dentro i miei perché, ma non ho più cuore. Anche la luna sbanda lassù, specchio della città. In un tempo senza età e stento a vivere, muore solo ciò che fiorirà. Poi è primavera, ora quel che so, io non lo so, mi immergo in me, bevo l'amore in cui annego, è miele impuro, senza te. E vive solo ciò che fiorirà, sei sogno corpo puro che non pesa, sempre un po' di più accanto a me.